aspettavo. E dire che credevo in te, ma forse sbagliavo. E pensare che eri per me quella buona amica che più adesso non c'è. Ma perché l'hai fatto, lo sai? Io non ti perdonerò mai. Di sicuro avrai riso assai, ma adesso te pentirai. La mia fiducia hai perso per fare la scema. Dimmi se ne valsa la pena. Io che ci ho abboccato e tu mi hai fregato, ma la mia amicizia ci hai lasciato. Io non ti odio perché questo fa paura. Ti volevo bene ma ti credevo più matura.